giorno. Sono Gigi D'Agostino e altre storie. E questo è il mio cammino. Benvenuti nel mondo che non c'è. ¡Cuánto!

Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Questo è il cammino, e poi il dritto fino a mattino, e poi la strada la trovi da te. Questa è l'isola che non c'è. Seconda stella destra, questo è il cammino, e poi il dritto fino a mattino, e poi la strada la trovi da te. Questa è l'isola che non c'è. Spazio, si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ciao, sono Gigi D'Agostino. Lei è il più fulgido astro del firmamento musicale. Voglio la cassa che mi scassa. Yeah, boo-boo. volete mandare le vostre dediche, mandatemi il vostro SMS al numero 333-64-67-662. Ma lei perché si è fermato? Su, coraggio, si muova. Parti un po', dai. Dag è un suono puro. Gigi Dag è un suono puro. Col suo tamburo stai sicuro. Officina emotiva. Domenica pomeriggio, 1 aprile 2007, ore 15. Officina emotiva con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale presso la discoteca Freak, Grandate, Como. Discoteca Freak. Niente, allora ci vediamo lì. We'll be right back. cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Cammino del Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. cammino di Gigi D'Agostino. cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni.